perché se entra in protezione una volta che lo riattacchi riaccende. Ma quelli sono quegli alimentatori natali, quei grigimi, quelli che sono tutti in alluminio e sono collegati due in parallelo, mi capito, per fare la 24. Un paese vicino Lodi. Ehi, l'alimentatore Massimiliano di nuovo. L'alimentatore, perché uno sta dando 14, poi dobbiamo 7, 14 e 16. E la 24 non sta erogando. Vedi? Adesso si è ripreso, aspetta. Guarda, dalle un colpetto, magari che si sia inchiodato uno, magari ti sta dando solo la 12. Se si blocca uno, la 24 non te la dà, ti dà solo la 12, capito? Infatti. Ma usare pure la 24, non l'hai compreso. Guarda, sono assimilato, si è ripreso tutto qua. Sono andato in protezione all'alimentatore. Allora, 9.30, sì, qua, picco di 9.30. Con l'orato, ma lasciano così, perché poi la radio è bella, non recupera niente, lasciano così, sennò poi se aumenti la radio esce troppo forte ed è brutta. Invece lasciano con 2 watt e il resto lo fa il drone. Guarda, adesso la massima. 9.30 pieno. Positivo, vediamo un po', guarda, ti fai dare il segnale da Giovanni che è più lontano, vai Giovanni. Sì, sempre confermo, sempre 9.30 anche qua da me, sta uscendo bene, e anche di radio. Guarda, positivo tutto, dai. Radio mascola è quella. Uscite dai muri, Giovanni, cambio almeno la radio. Sì, mi raggio di Biatra. Così con lei, con la rimette, allora. Proprio un figurone vostro. Io. E va bene. Sì, Natalia, quello lì lo stesso, tu stai andando alla grande, perfetto. Quando metto l'antenna uscirò più forte, penso, perché la devo mettere 4 metri più su di come adesso. E poi quella che devi montare è già quasi 3 metri più alta di quella che è adesso, mi piace usare. Non lo so, ce l'ho qua, ma è smontata. Quando la piazzerò, ho già il palo da 4 metri, già pronto da infilare lì. Ehi, ma non hai capito, Natali, quella che devi montare, l'antenna, è 8 metri. No, la cosa è la Game Master, quella che devo montare, quella senza radiale. È gatta lunga la Game Master, 9 cm, gatto è 7,50. Una cosa del genere, ma anche questa è 7 metri. Quella che c'hai adesso, no? Quella che c'hai adesso è 5,15 m. Boh, e 5 ottavi dovrebbe essere 7 metri. Dentro la J-Pol. Cosa ti stai prendendo tu? La J-Pol. Già buona che quella, come mai gli sai un'idea? Perché sto senza antenna, Massimiliano? L'altra si è rotta. Ho usato la Gran Plena adesso. Ah, la Gran Plena c'hai, icca, E allora? Sono finita a un quarto d'ora. Capito? Quella mi si è troncata con quel vento che ha fatto l'ultimo vento forte che ha fatto, si è pigiata in due. È una cosa allucinante. Ma perché non era nuovissima, Mi hanno dato che l'ha già usata e l'ho usata. E quindi ha preso e si è staccato tutto, è rimasto solamente la bombina. Il resto del tubo in alluminio se ne è sceso. Ecco. Vabbè. Quindi quella lì è un quarto d'onda anche così. E allora? Però il suo lavoro lo sta facendo lo stesso. Sta attento, abbassa un poco quando entri con i soccorsi da usare. No, che li tiene lì, sino a 1000 tiene lì. 1000 watt tiene. Beh, lascia perdere 1000 watt. Sarà al picco di 1000 watt. Quello che c'è scritto nelle caratteristiche, no? Già, quando si scioglie pazienza. E vabbè, comunque dai, stai uscendo alla grande, va bene. Sì, sì, va bene, va bene. Allora io ho la stella Natalie, quella che ha 8 radiali, è 6,15 metri, però è 50 anni. Dai, scusate, li prendo io che sto chiudendo, dai, che fa. Stiamo uscendo qui alle trasmissioni, alle prossime salutone circolari a tutti. Ciao Daniele, buona serata e buon divertimento, vai Natalie. Ma visto là è quello che stavo usando poco fa l'apparecchio, già lo sai qual è già? Già me l'hanno detto. Avanti Giova, Daniele sta chiudendo. Ciao Daniele, buon proseguimento di serata. K di Roma, aspettando a voi. Alle prossime. Ciao ciao Daniele. Già lo so, una taguba, però già si sente. Bene, ma poi non ti hanno più rotto le scatole, quella cosa là, no? No, negativo, ma poi adesso quella che sto piazzando, che devo piazzare adesso è senza radiali, capito? La metto più in alto, quindi non dovrebbe disturbare. Adesso non sono venuti più nessuno. Sicuramente ci sarà rotte a balle. Può anche darsi, cosa vuoi ti dire? Vabbè, meglio così. No, io invece qua la sera, cazzo, c'ho quando inizia a imbrunire così, c'ho questo rumoraccio che mi sale lo Smith da Santiago 7-8 e non fa ascoltare a nessuno, perché poi quando tu schiacci la portante, no, anche se ti sento più forte, ti porti dietro questo rumoraccio, che infatti è per quello che non ci stavo entrando un periodo là. Oggi non ce l'ho questo rumore, ho detto, beh, oggi mi faccio una chiacchierata. Ehi, lo so che non stavi entrando per quel disturbo. Ehi, ma già lo trovo questo disturbo, non ti preoccupare, adesso mi devo fare una cosettina e poi vedrai che già lo trovo. Dai tu, dacci, cosa ci dici Giovanni? Sentemi, stavo per entrare per salutarvi tutti, che devo fare delle medicazioni. Comunque sono contento, dai, stasera è entrata un po' di gente e avevo dato un po' garizzo. Va bene, dai, va bene, già si ripopola ogni tanto. Allora, se stai andando via, ti saluto, ciao Giovanni, mi ha fatto piacere. E alle prossime, buon proseguo di serata, vai Natalia. Ciao Giovanni, buon proseguo, alle prossime. Ciao, ciao, grazie a voi. Ciao. Ciao, ciao. Oggi vi chiamo una cosa, Natalia, a Gianni, sabato. A chi hai visto, a Gianni? Telefoni. E a doppio rutto. Era lì alla corrida, là. Capa, io non lo sapevo, se no sarei venuto anche io lì. E a noi ci hanno dato i biglietti, un mese prima, perché c'era mia figlia che faceva uno spettacolo di ballo, capito? Erano ospiti con la scuola di ballo dove balla mia figlia. E quindi ci hanno dato i biglietti, infatti noi eravamo, diciamo, i genitori, poi eravamo tutti da una parte. E l'ho trovato lì all'ingresso. E c'è stato Luca pure, perché dice doveva andare anche Luca. Io l'ho saputo tardi e quindi non ho potuto procurarmi i biglietti, capito? La 50 voleva andare. Bello, grazie, mi sono divertito di brutto, ogni risata, grazie. Sì, sì, c'è anche Luca, l'ho visto e ci siamo anche salutati. Chi me l'ha detto? È proprio Luca. La mattina me l'ha detto però. Quindi non ha giovuto va nuda. Se volevi venire a casa, ti avrei buscato anche i biglietti, perché c'era uno che della scuola di ballo nostra, diciamo, che ne ha comprato 4 in più e invece poi per altre cose non sono potuti andare e se li ha venduti quei 4. Infatti, cosa ne sapevo io? A me me l'ha detto Romanzano, me l'ha detto Luca. Infatti Bombolino mi ha detto, adesso non ci puoi fare più nulla, non ne trovi i biglietti. E se no sarei andato anche io, la mia 50 voleva andare. Bello, va, c'era il pianone, c'era la batteria, siamo veramente divertiti. Ho occupato le cubatori. E hai fatto gasotto. Che un divertimento allucinante. Me lo posso immaginare. io è che negli ultimi tempi sono stato male, mi hanno operato due volte, sono guidato Maraviru, Massimiliano. Sono arrivato a pesare 52 kg, adesso già mi sto riprendendo. Vabbè, non lo sapevo io. Io tanto mica non lo sapevo in radio, quindi non stavo neanche più accendendo né nulla, capito? Non sapevo niente. Infatti, te l'ho detto per quello, perché ho pensato, Massimiliano non ne sa, ma cosa noi eravamo in trendy, e quindi te l'ho voluto dire perché stavo male veramente. Uno scheletro dopo diventato. C'è sugar, ma roba dei guri, no? No, negativo. Sono vivo per miracolo. Una pancreatite acuta ho avuto. Poi all'ospedale mi hanno fatto un bel esame, hanno scoperto che avevo i calcoli alla colicisti, mecida un'ernia, mecida, e me le sono fatte operare tutte e due. Così almeno ho avuto due operazioni, ho avuto la sua. Io non sapevo niente, è un casino, è veramente un casino. Natali, ti lascio un secondo, mi stanno chiamando laggiù, riprendo subito. Già sono qui, là. Natalia, ci sei? Eia! Adesso mi è salito quel rumoraccio strano. Non lo so come mi senti. Cosa? Male mi senti. Perché te lo porti dietro e ti senti in mezzo a questo rumoraccio, quindi niente, da. Dai, ti saluto Natalia, ci sentiamo magari domani se coincide, ok? Cappa, ciao, buon proseguo, buon tutto. Ragazzi, cari, buonasera. Febbriciatola, mal di gola, che ballacche. Mal di schiena, mal di gambe, mal di testa, un bel. Vabbè, quello ci soffro già. Già di mio, mal di testa, sì. Vabbè. Affanculo, ecco qua. Allora, al lavoro non sei rientrato ancora. No, neanche domani vado. Vado dopo domani, Se uno sta male, cosa cazzo c'è? Così, se uno sta male, punto. Lo so. E tu? Io già sto lavoricchiando, va. Fa così, da poco a poco. Meglio di nulla, capito. Poi ho fatto delle visite anche da poco. Faccio mia una a giugno. Forse mi devo operare al naso. Vuoi fare te, no? Mi devo operare al naso. Ah sì? Perché c'è sempre mal di testa, sì, sempre. Poi sempre questo naso chiuso, sto usando questo spray che fa malissimo. Ho fatto la vista dall'otturino, l'ho ingoiata. Mi ha controllato e mi ha detto che sono da operare. Sono andato a Iti, ho fatto l'attacco. Però lei vuole che mi controlla lì al coso, dove fanno le operazioni, lì al, come si chiama? Alla teca bianca. Ho capito, ma quindi soffri di sinusite? Sono un po' di po' di tutto. Quando c'è freddo, no? Già ho la cervicale che mi ammazzendi. Mi prendo questo mal di testa allucinante, ma manco con Luke ti passa, Sì, ma lo faccio pure. Problema? Prima devo finire col dentista. No, una volta. Ma tanto questo intervento lo fanno solo nel periodo freddo, là, tipo ottobre, così, novembre. Ho capito. Vado, vai, ascolto, io devo mettere la pizza in forno. Mi devo allontanare, al limite se coincide più tardi, ok? Sì, allora fai, no, tanto mi sono tutto e mi guardo la TV. Alla prossima, ciao a te. Sì, va bene, ciao.